Ale da Senigallia: mi rilassa lavare i piatti, passare la scopa, tirare il mocio sul parquet. Giordano invece: suonare la batteria come si deve per una mezz'ora, sudo quasi come facessi 2 ore di palestra. E poi Riccardo: mi rilasso quando gioco a Yahtzee col telefonino seduto sulla tazza del bagno. 349-238-6666, ma 800-24-0024, andiamo a sentire Maurizio da Monza. Pronto? Pronto? Ciao Maurizio, sei tu? Eccomi. Allora, la cosa che mi rilassava, perché è un inter... lavare i piatti, durante il mio periodo faraonico, lo definisco così, tra una moglie e l'altra. Ok, allora aspetta, quindi... Io abitavo 8 anni fantastici, abitavo inoltre Popavesi, il lavello dava proprio su una vigna, da rilassante di suo, e invece la seconda moglie, ma questa me la sono cercata io, è un amante della lavastoviglie, quindi ho perso anche quella cosa. Però non ti fai nemmeno quei 5 minuti prima a ripassare, prima di mettere in lavastoviglie? Mia nonna, no? Quando dico: nonna, guarda, c'è la lavastoviglie. E lei li lava comunque i piatti, nonna, non serve lavarli, c'è la lavastoviglie. Appena posso vado lì, gli do la... Ah, ok. Se no la lavastoviglie non fa bene esattamente com'è. Ma quindi, Maurizio, scusami, tu sei di quelli che anche a casa degli amici, cioè dopo la cena, no, lascia, lavo io che mi rilassa? No, quello no. Ok, però in linea di massima nel periodo, come l'hai definito? Faraonico. Una moglie e l'altra, quasi 8 anni, 7 anni rotti, 7 anni e 45 faraonici. Che insomma mi sembra siano stati gli anni più belli della tua vita, da come lo dici. Eri un faraone e lavavi i piatti. Maurizio, grazie mille, buona giornata. Ciao. Andiamo a Verona da Silvia, pronto? Sì, ciao. Ciao Silvia, tutto bene? Benissimo, grazie. Sicura? Hai una voce un po'... Ma sembri abbacchiata. No, assolutamente. Ok, però dovresti rilassarti in che modo, quindi? Guarda, io mi rilasso da morire andare dal dentista. In che senso, scusami, andare dal dentista? Non lo so, io penso che purtroppo ho dovuto cominciare ad andare dal dentista fin da piccola e credo di aver sviluppato una forma di autodifesa contro il dolore, quando vado dal dentista mi rilasso. Ma scusami, ma ti rilassa proprio stare sulla poltrona mentre lui ravana col trapano? Sì. O... sì. Ho una sopportazione al dolore, penso, fuori dal comune. Ma cosa dice il tuo analista in proposito, Silvia? Mi fai complimenti. Ah, ok.